membro di Jerry Saltz, ma in realtà che lo annuncia che si chiama How to be an Artist e come essere un artista, ma l'articolo in realtà racconta come sorpassare, come superare creativamente questa cattività, diciamo. E dunque si intitola Yes, you can channel your stress into creativity, here's how. Sì, puoi canalizzare il tuo stress nella creatività e qui c'è scritto come. L'articolo di Elizabeth Egan comincia così: draw it out, disegnalo. Il mio libro è uscito martedì scorso e non c'è stato alcun tipo di evento. Avevo organizzato un tour da 45 giorni e è stato giustamente cancellato, dice Jerry Saltz, autore di How to be an Artist, come essere un artista, che fa il suo debutto al numero 12 della classifica della non-fiction, dei saggi hardcover, come si dice? Non edizioni tascabili, non lo so, dico cartonato. Il critico d'arte, che si autoproclama come un artista fallito e vincitore del Pulitzer Prize del 2018 per la critica d'arte, per il criticism, in questo caso presumo che si traduca critica d'arte, io sto traducendo così alla boia d'un Giuda, così mentre leggo, sta passando la sua pandemia assieme alla sua moglie, la critica d'arte del New York Times, Roberta Smith, nel Connecticut del nord-ovest. Fortunatamente ha alcune parole di saggezza per le persone che hanno bisogno di mettere la loro energia nervosa e fare buon uso della loro energia nervosa. Dice: creativity is a survival strategy. La creatività è una strategia di sopravvivenza. It's in every bone, in every person's body. È in tutte le ossa di tutti i corpi di qualunque persona. Ed è stata con noi fino ai tempi delle caverne. E l'isolamento favorisce l'arte, che è una pratica intima. In questo momento le persone stanno lavorando per grandi lassi di tempo nel tavolo della propria cucina con i bambini che disegnano di fianco o che fanno appunto un po' di casino attorno. Ma l'arte è sempre stata fatta in queste circostanze. In molti modi questo è molto più vicino di quella che è stata l'arte negli ultimi 50.000 anni, anziché appunto il metodo di essere soli in uno studio super fancy. You don't need fancy supplies. Per quel che riguarda il materiale, i noodles, la carta, il cartone, la plastica e le matite. Il tuo iPhone può fare 100.000 cose. You're actually making art out of yourself. In realtà tu stai facendo arte prendendo le cose da te stesso. Come Louise Bourgeois disse, tell your own story and you will be interesting. Racconta la tua storia e tu sarai interessante. Sii pronto per essere imbarazzato. Non pensare mai che di stare creando qualcosa di buono. Buono e noioso. Il 95% delle cose che io scrivo, dice sempre Jerry Saltz, it's crapola. Crapola sarebbe è tipo una stupidaggine, per essere abbastanza non offensivo. And I just cut it to find the 5% that might be worth putting out into the world. E trovo che faccio fatica ad avere a trovare un 5% che ha senso far uscire nel mondo. Devi cercare di aprirti e cercare di ottenere quel tipo di vulnerabilità radicale. There is no wasted time, non c'è tempo perso. Non succede niente se tu non stai lavorando. Lavorare è assolutamente la cosa che ti farà che lo schifo che stai facendo se ne andrà. Curse and the pain that comes from not working, ovvero il non lavorare ti provoca appunto dello schifo, della pena e anche degli accidenti, diciamo. Ma una volta che cominci andrai in un posto molto strano, pieno di possibilità, che hai sempre tenuto di fianco per paura. Allow yourself to get lost there. Lasciati perdere in questo posto. Segui qualunque trend idiota che il tuo cervello ti fa seguire. Io faccio così. L'arte ti dice qualcosa che non sapevi di sapere fino a che l'hai saputo. E poi l'ultimo consiglio fantastico di Jerry Saltz è fai dell'invidia un tuo nemico. L'invidia è al servizio di chi ti sta guardando. Se tu perdi molto tempo a guardare le capacità delle altre persone, i loro social skills migliori, le connessioni potenti che hanno e i loro soldi, diventerai bitter, amaro and self-pitying e autocommiserante. Questo ucciderà la tua arte. Tu devi andare a lavorare, cioè devi lavorare e cercare le moltitudini che sono dentro di sé. Lo facciamo tutti. L'arte è stata con noi fin dall'inizio. Non è mai successo che non ci fosse e ci sarà all'interno di noi. It's never not been there and it will be there on the other side of all this. L'arte è sempre stata dentro di noi e ci sarà di fianco a noi fino alla fine di tutto questo, anche dopo la fine di tutto questo. Take your protein pill. bestiale. Una delle poche cose positive di questa quarantena è proprio il fatto che appunto tanta gente si annoia e dunque per farci sentire meno soli ci canta una canzone su Facebook, e questa era Alice Muccichini che ci cantava David Bowie, e adesso invece ascoltiamo Abigail Kane che invece ha composto una canzone proprio in occasione di questa quarantena, e lei fortunatamente ha un pezzo di terra per cui può suonare all'aperto malgrado il resto della sua famiglia, come sentirete, fa un po' di casino in sottofondo. I am my own baby and damned if I ever let her die. I am my own lady, a lady who wants to fly. I'm gonna buy myself a hang glider, see the world with a bird's eye. Gonna be a deep sea diver, gonna dive so deep I'm gonna get to the other side. Swam today in a quarry, green like the dreams when you're sinking into sleep. Light on my arms, pushing down, breathing out, breathing in with my second sleep. The deeper you get, the bigger the fish. I'm a tadpole floating in the sun. Pond skater waiting to be eaten while I'm skimming around, skimming around just for fun. I am my own baby, I'm damned if I ever let her die. I am my own lady, a lady who wants to fly. Gonna buy myself a hang glider, see the world with a bird's eye. Gonna be a deep sea diver, gonna dive so deep I'm gonna get to the other side. There's a boy with a broken rib, he jumped off the edge. Did he get to the other side? Did he see a tractor orange like an anchor, a cow lying sunken like a battleship on its side? I am my own baby, I'm damned if I ever let her die. I am my own lady, a lady who wants to fly. Gonna buy myself a hang glider, see the world with a bird's eye. Gonna be a deep sea diver, gonna dive so deep I'm gonna get to the other side. The water makes my body perfect, takes my body and moves it like a spell. Like the fish that slip under my feet, I never touch them, I never swam so well. I am my own baby, I'm damned if I ever let her die. I am my own lady, a lady who wants to fly. Gonna buy myself a hang glider, see the world with a bird's eye. Gonna be a deep sea diver, gonna dive so deep I'm gonna get to the other side. Cosa c'è, Nacho? Vuoi essere su Coxo Spaziale? Vuoi cantare anche tu online? Ma è freschissima! Ascolta! Minchia! Un'altra cosa che avrete notato è che un sacco di gente si è messa a fare dei live su YouTube, su Facebook, eccetera, eccetera. Altri invece stanno facendo questi remix di pezzi registrati ognuno per conto suo, e devo dire che alcuni suonano veramente bene, come questo che è un live, no, non è un live, ma è un registrato da casa dei Twi. Lonely in this haunted room, I call you, please be myself, be lonely in this city's gloom. I'll tell you what I did today. I went to the smart shop and talked to a stranger who told me that I look a bit older. The poster from the wall seems a bit like a nightmare. The time is gonna take on the floor. You are really glad you chose your path. You told me like you know what is what. You trust me, I know how to ask you out. Tonight we'll see the stars. I feel unstoppable, I feel alive. I feel unstoppable, I feel this is fun, fun, fun. And my resolution's not there's a little kiss playing first. Giving kiss, making kiss, and you gotta see it can't even fly. And my resolution's not there's a little kiss playing first. Giving kiss, making kiss, and you gotta see it can't even fly. Boom, boom, boom, boom, boom, boom. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. But I'm laying in this room because I'm scared to get away. I love a power flow, dancing the tango above my head. I go to the bathroom, I look like a stranger. My beauty seems to be a black hole. I put up on the wall as the times of computers are walking up and down the wall. I feel intangible, don't think I like it. I feel untouchable, I feel these and up, I'm fine. And my credulous enough, there's a little kiss playing stuff. Giving kiss, making kiss, and you gotta see it can't even fly. And my credulous enough, there's a little kiss playing stuff. Giving kiss, making kiss, and you gotta see it can't even fly. I'm like crazy, listen up, there's a little kiss playing stuff. Giving kisses, singing hits, I don't know why. I'm like crazy, listen up, there's a boo keeps playing sax. Giving kisses, singing hits, I don't know why. Am I crazy or just messed up? If the boo seems that sax, am I crazy or listen up, there's a boo keeps playing sax. Giving kisses, singing hits, and you gotta see it can't even fly. I am my crazy listen up. There's a boat kiss playing sax. Giving kiss, swinging hips, then you gotta sing. It can't even fly. Sono Cesare Pietro Iusti e stai ascoltando Coxo Spaziale. Altri fantastici artisti come la magnifica Tamara Bubble continuano a mandarci dei pezzi da suonare, e dunque noi siamo contenti qui a Coxo Spaziale di farli sentire. Questo è il nuovo disco di Tamara Bubble che si intitola Your Favorite Rapper is a Girl 2, ed è il secondo album che esce, e appena uscito mi è arrivato il link per scaricarlo per la stampa, e adesso ci ascoltiamo un pezzo che mi sembra quello più vicino alla nostra condizione, che si intitola Self-Motivated, che significherebbe automotivata. Like, marching to my own drum. It's banging, oh here I come. It's banging, please don't hurt me. No, been working, oh been working. Overtime, overnight, over wine. I'm alright, I ain't gon' whine till I get my money right. Like I'ma just go, like the green light. Go, shine like the beam high, bright. My, don't just seem white, don't just seem my. Don't just seem kinda nice. Coxo Spaziale! Lo sapevate che Coxo Spaziale ha una pagina Facebook? È facebook.com/coxospaziale. E domenica scorsa, no, sabato scorso, ho chiesto alla pagina Facebook di Coxo Spaziale cosa vi manca oggi. Alcuni mi scrivono, tipo l'Elena Grossi, niente. Altri mi parlano di alcol. Lorenzo Balbi mi risponde il bar e Daniela Tozzi mi risponde uno spritz. Alberta Tedioli risponde un uovo e un limone, la Mazzagardi, un pezzo ingombrante della mia famiglia e il burro. Elena Pascolini mi risponde la solitudine, Chiara Pergola una passeggiata sotto la luna, Dario Di Liberto la programmazione di Dasn e Amerigo Mariotti la Juve, dai. Arianna Romagnoli giustamente uscire, andare al cinema a vedere mostre, Gwendalina Piselli fantastico, i negozi di dischi. E Francesca Sanfelice, ahimè, risponde stringere mio nonno che ci ha lasciato stanotte per il Covid-19. Mi dispiace Francesca. Enrico Masoni scrive sesso, mentre giustamente Oscar Moroni, detto anche Giffo, dice fate schifo. Vaga scaletta. La stessa domanda l'ho fatta in Stanzone, che è questo gruppo segreto di Facebook in cui io e Fedra e tanti altri personaggi abbastanza particolari siamo. Cosa vi manca oggi? Nicoletta Orlando scrive il mare, la Silvia Matricardi scrive lo dico quando siamo in fascia protetta, Pier Maria Saglietto invece è molto più diretto, la gnocca, ma non oggi, sempre. La Stefania De scrive il mio moroso, il mare e il clima, Raffaella Giordani niente. E Stefania gli risponde ma come, tu sei una grande viaggiatrice. Ero, risponde Raffaella. Marfia Giorgi scrive la musica. Denisto Neguzzo il moroso, la nonna, i miei alunni, continuo. Maria Laura Navetta nuotare e il mare. La Selma Montanari la libertà di vagare senza che un drone ti intercetti. E Giffo mi chiede ma l'hai scritto tu sto post spaventoso? Io gli rispondo embè, poi leggo le risposte su Coxo Spaziale e lui risponde allora la mia è perfetta, pensavo l'avesse scritto quella spaventosa di Fedra. Valentina Zaffagnini scrive a me manca da morire guidare sulla 14, la Mariella di Donna, Villa Borghese la mattina presto col cane, pure la mamma. E la Lidia Cocozza dice mia sorella e poi decidere ogni giorno dove andare. E Gianluca Cidiacono risponde un fiorino. Orario, segnale orario. Oltre ad automotivarci, un'altra cosa che dobbiamo assolutamente fare qui in quarantena è respirare. E dunque ci ascoltiamo Breathe di EJ Amaci. Each time we fall over. questo era Simeone Crispino del duo Vedova Maffei, un duo artistico piuttosto conosciuto, che suonava la chitarra in una canzone dedicata a Melissa, Idil Beyazit. E invece noi abbiamo finito il nostro programma e voi direte: ma come mai così presto? Perché la nostra sigla finale è il nuovo pezzo di Bob Dylan, che, come forse saprete, è un pezzo che dura 17 minuti. Si chiama Murder Most Foul ed è una canzone, scrive ansa.it, che non è dedicata al coronavirus né al lockdown, ma potrebbe servire da balsamo in questo momento buio della storia. Il brano inedito del cantante, il primo da Tempest del 2012, è una ballata sull'assassinio di John Fitzgerald Kennedy e dei sogni infranti degli anni 60. Era una giornata cupa a Dallas, novembre del 63. Queste sono le prime parole della canzone e io vi lascio appunto come sigla finale questo pezzo di 17 minuti di Bob Dylan, che merita di essere ascoltato decisamente. Io ero Stefano W. Pasquini, questo era Coxo Spaziale e noi ci risentiamo come al solito sulle onde di Radio Città Fujiko 103.1 lunedì prossimo, sempre alle 19. Ciao. It was a dark day in Dallas, November 63, the day that would live on in infamy. President Kennedy was a right line, good day to be living and a good day to die. Being led to the slaughter like a sacrificial lamb. He said, wait a minute, boys, you know who I am. Of course we do, we know who you are. Then they blew off his head while he was still in the car. Shot down like a dog in broad daylight. Was a matter of timing and the timing was right. You got unpaid debts, we've come to collect. We're gonna kill you with hatred without any respect. We'll mock you and shock you, and we'll grin in your face. We've already got someone here to take your place. The day they blew out the brains of the king, thousands were watching, no one saw a thing. It happened so quickly, so quick by surprise. Right there in front of everyone's eyes. Greatest magic trick ever under the sun. Perfectly executed, skillfully done. Wolfman, oh Wolfman, oh Wolfman, howl. Rub-a-dub-dub, it's a murder most foul. Hush, little children, you'll understand. The Beatles are coming, they're gonna hold your hand. Slide down the banister, go get your coat. Ferry across the Mersey and go for the throat. There's three bumps coming all dressed in rags. Pick up the pieces and lower the flags. I'm going to Woodstock, it's the Aquarian age. Then I'll go over to Altamont and sit near the stage. Put your head out the window, let the good times roll. There's a party going on behind the grassy knoll. Stack up the bricks, pour the cement. Don't say Dallas don't love you, Mr. President. Put your foot in the tank and step on the gas. Try to make it to the Triple Underpass. Blackface singer, whiteface clown. Better not show your faces after the sun goes down. up in the red light district like a cop on the beat. Living in a nightmare on Elm Street. When you're down on New Bellum, put your money in your shoe. Don't ask what your country can do for you. Cash on the bellhead, money to burn. Dealey Plaza, make a left-hand turn. I'm going down to the crossroads, gonna flying a ride. The place where faith, hope, and charity died. Shoot 'em while he runs, boy. Shoot 'em while you can. See if you can shoot the invisible man. Goodbye, Charlie. Goodbye, Uncle Sam. Frankly, Miss Scarlet, I don't give a damn. What is the truth? Where did it go? Ask Oswald and Ruby Leon, I know. Shut your mouth, say it, otherwise hold out. Business is business, and it's a murder most found. Tommy, can you hear me? I'm the Ancient Queen. I'm riding in a long black Lincoln limousine. Riding in the back seat next to my wife. Heading straight on into the afterlife. I'm leaning to the left, got my head in the lap. Oh Lord, I've been led into some kind of a trap. Well, we ask no quarter. No quarter do we give. We're right down the street from the street where you live. They mutilated his body and they took out his brain. What more could they do? They piled on the pain. But his soul was not there where it was supposed to be at. For the last 50 years they've been searching for that. Freedom, oh freedom, freedom over me. I hate to tell you, mister, but only dead men are free. Send me some love, tell me no lie. Throw the gun in the gutter and walk on by. Wake up, little Susie, let's go for a drive. Cross the Trinity River, let's keep hope alive. Turn the radio on, don't touch the dials. Parkland Hospital, only 6 more miles. You got me dizzy, Miss Lizzie, you fill me with lead. That magic bullet of yours has gone to my head. I'm just a patsy like Patsy Cline. Never shot anyone from in front or behind. Got blood in my eye, got blood in my ear. I'm never gonna make it to the new frontier. Stupidest film I've seen that before. Seen it 33 times, maybe more. It's vile and deceitful, it's cruel and it's mean. Ugliest thing that you ever have seen. They killed him once and they killed him twice. Killed him like a human sacrifice. The day that they killed him, someone said to me, son, the age of the Antichrist has just only begun. Air Force One coming in through the gate. Johnson sworn in at 2:38. Let me know when you decide to throw in the towel. It is what it is, and it's murder most foul. What's new, pussycat? What do I say? I said the soul of a nation been torn away, and it's beginning to go into a slow decay. And that it's 36 hours past Judgment Day. Wolfman Jack, he's speaking in tongues. He's going on and on at the top of his lungs. Play me a song, Mr. Wolfman Jack. Play it for me in my long Cadillac. Play me that only the good die young. Take me to the place Tom Dooley was hung. They say James Infirmary in the court of King James. If you want to remember, you better write down the names. Play it at James 2. Play it rather go blind. Play it for the man with a telepathic mind. Play John Lee Hooker. Play Scratch My Back. Play it for that strip club owner named Jack. Guitar Slim going down slow. Play it for me and for Marilyn Monroe. Play Please Don't Let Me Be Misunderstood. Play it for the first lady, she ain't feeling too good. Play Don Henley, play Glenn Frey. Take it to the limit and let it go by. Play it for Kyle Wilson too. Looking far, far away down Gower Avenue. Play Tragedy, play Twilight Time. Take me back to Tulsa to the scene of the crime. Play another one and another one bites the dust. Play the old rugged cross and in God we trust. Ride the pink horse down that long lonesome road. Stand there and wait for his head to explode. Play Mystery Train for Mr. Mystery. The man who fell down dead like a rootless tree. Play it for the reverend, play it for the pastor. Play it for the dog that got no master. Play Oscar Peterson. Play Stan Getz. Play Blue Sky. Play Dickie Betts. Play Art Pepper. Thelonious Monk. Charlie Parker. And all that junk. All that junk and all of that jazz. Play something for the Birdman of Alcatraz. Play Buster Keaton. Play Harold Lloyd. Play Bugsy Siegel. Play Birdie Boy Floyd. Play the numbers. Play the odds. play Cry Me a River for the Lord of the Gods. Play number nine, play number six. Play it for Nancy and Stevie Nicks. Play Nat King Cole, play Nature Boy. Play Down in the Boondocks for Terry Molloy. Play It Happened One Night at White Night of Sin. There's 12 million souls that are listening in. Play Merchant of Venice, play Merchants of Death. Play Stella by Starlight for Lady Macbeth. Don't worry, Mr. President. Help's on the way. Your brothers are coming. There'll be hell to pay. Brothers, what brothers? What's this about hell? Tell them we're waiting, keep coming. We'll get them as well. Love Field is where his plane touched down, but it never did get back up off the ground. It was a hard act to follow, second to none. They killed him on the altar of the rising sun. But they missed you for me and that old devil moon. Play Anything Goes and Memphis in June. Play Lonely at the Top and Lonely at the Brave. Play it for Houdini spinning around his grave. Play Jelly Roll Morton, play Lucille. Play Deep in a Dream and play Driving Wheel. Play Moonlight Sonata in F sharp. And a key to the highway for the King of the Harp. Play Marching to Georgia and Dumbarton's Drum. Play Darkness and Death Will Come When It Comes. Play Love Me or Leave Me by the Great Bud Powell. Play The Bloodstained Banner, play Murder Most Foul. Spaziale non l'ascolterò mai.